Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che va a celebrare inizialmente i 30 anni di un collettivo molto vivace, quello di Fumettomania Factory di Barcellona e Pozzo di Gotto. Siamo nel messinese, e allora Morena Moretti ha interpellato un portavoce di questo collettivo, Mario Velenati, per sapere appunto l'attività del collettivo stesso. Mario Velenati, tu sei l'animatore dell'associazione Fumettomania Factory, che quest'anno compie 30 anni e sono 30 anni di attività culturale nel vostro territorio, che è quello di Barcellona, Pozzo di Gotto del Messinese. Ci puoi raccontare le storie dell'associazione e anche i motivi che vi hanno spinto a fondarla, a parte naturalmente, immagino, la passione per il fumetto? Sì, siamo il cofondatore dell'associazione culturale e l'attuale presidente, oltre che animatore, come hai ben detto tu. Ma sai che erano gli anni 90, quando l'associazione l'ho creata assieme ad altri giovani. C'era un fermento culturale perché c'erano tante fanzine a livello nazionale, e mentre in Sicilia c'erano piccoli gruppetti, ma non c'era un nucleo vero e proprio. Io assieme ad altre persone realizzai una fanzine chiamata Comic Book, sul fumetto americano. Subito dopo, da quel gruppo proprio originale, si formò Fumettomania, si formò come rivista. Quindi noi debuttammo a marzo del 1990 come rivista al Salone del Fumetto di Lucca, precisamente all'edizione primaverile del Salone del Fumetto di Lucca. E l'anno successivo diventammo associazione culturale. Non ci chiamammo subito Fumettomania, avevamo un altro nome, ma tutti ci conobbero da quel momento come Fumettomania. Sì, questo era l'impeto. La passione del fumetto, la voglia di comunque di farlo conoscere ad altri giovani, di studiarlo, di approfondirlo, di promuoverlo, di diffonderlo. Il nostro territorio allora era molto povero a livello fumettistico. Non c'era la scuola del fumetto di Palermo. L'unico autore che conoscevamo tutti era Gianni Allegra, che era un vignettista e che ancora oggi lavora. Non c'erano tutti questi disegnatori di fumetti che ci sono in questo momento. Ma voi eravate anche un gruppo di giovani che disegnavano dei fumetti? Sì e no, nel senso che nel gruppo c'erano persone che disegnavano, sì certo. Io allora ero iscritto alla facoltà di architettura Reggio Calabria e frequentavo l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per cui frequentavo un luogo dove il disegno era, diciamo, pane quotidiano. Per cui conoscevo ragazzi di Reggio, ragazzi di Barcellona, di Messina, di Milazzo che disegnavano. E proprio quel gruppo diventò Fumettomania, tant'è che nel numero 0, febbraio-marzo del 90, tre quarti della rivista erano storie a fumetti di esordienti. Noi siamo nati come rivista di giovani esordienti e con un appendice redazionale. Per cui sì, assolutamente, certo che c'erano persone che disegnavano. Io non disegnavo, a me piaceva leggere, piace leggere tuttora, piaceva organizzare eventi, appunto far conoscere questi autori, no? Che allora erano lontanissimi da noi, figurati, erano autori di Bologna, di Milano, di Napoli, di Roma, quindi per noi erano lontanissimi. Non ci dimentichiamo che allora ci sentivamo con le lettere scritte e inviate per posta e con le telefonate fatte dalle cabine telefoniche, tutto un altro mondo rispetto a oggi. Il fumetto comunque era molto letto tra i giovani dagli anni 70, ci fu anche uno sdoganamento di questo linguaggio come media, come prodotto artistico, però invece diciamo gli anni d'oro sono stati poi quelli, diciamo 70, 80, 90. Oggi il fumetto rispetto a quegli anni è ancora così diffuso tra le nuove generazioni, è letto, la graphic novel si può dire che abbia lo stesso impatto, la stessa diffusione? Ti devo rispondere nì, sì e no. E sì, perché c'è la voglia di leggere. Quando io vado nelle scuole, ogni anno facciamo un progetto nelle scuole medie e nelle scuole primarie, e con 7-8 classi minimo, massimo anche 40 classi, ci sono dei ragazzi che piace leggere fumetti o che hanno letto i fumetti del papà, del fratello, della sorella. Un po' meno le graphic novel. Le graphic novel nelle scuole le portiamo noi con i nostri progetti, per esempio. Sono pochi i ragazzini che si avvicinano alle graphic novel, anche perché nella nostra città o anche nell'internet non ci sono delle fumetterie. La fumetteria più vicina è a Messina, sono 47 km da noi. Per cui un ragazzo che deve andare in una fumetteria a Messina è un po' complicato. Le convention più vicine, aggiungo, sono a Palermo e a Catania. Sono due belle convention, però anche lì c'è un po' di difficoltà da parte delle nuove generazioni di spostarsi in autobus, in treno per andare a queste convention. Ci sono, per carità, però non sono così numerosi come vorremmo. Ecco, ti Voi posso dire sì. che mi capita spesso quando entro nelle classi di fare un discorso generale sul fumetto, di dire: sapete, esistono le edicole? Ah, tutti dicono: le edicole cosa sono? E questa campagna pro edicole è una lotta che faccio ormai da 7 anni. Andate nelle edicole, fatevi portare, comprate. Quando dico chi compra fumetti o chi legge fumetti in una classe di 20, le mani alzate non sono mai più di 6-7. Se gli Sì. dico invece: avete visto i film dedicati ai personaggi ai fumetti? Quasi tutti li hanno visti, ma i fumetti sono 6-7 che leggono su 20. Questa, la proporzione è questa, Morena. Ed è un dispiacere dirlo, sono molto sincero. Però questo significa che bisogna lavorare molto. Noi tentiamo di lavorare molto, ecco. Poi abbiamo risultati alternanti, certi anni tanti risultati positivi, certi anni un po' meno. Fate anche del fumetto, diciamo, impegnato, nel senso che portate nelle scuole anche dei lavori, dei fumetti che però affrontano temi come quelli della lotta alla mafia o sulla violenza di genere. Sì. Quindi utilizzate il mezzo anche per scopi, diciamo, sociali e formativi. Sì, assolutamente sì. Nel 2009-2010, con la scusa che allora la Marvel compiva 70 anni, abbiamo iniziato questo approccio con le scuole. Facevamo allora venire classi di studenti in una biblioteca che abbiamo a Barcellona dedicata proprio ai ragazzi, e lì facevamo degli incontri parlando con diapositive, facendo vedere fumetti di questo mondo così variegato che è quello della Marvel. Da lì in poi, a poco ci siamo avvicinati alle scuole, e dal 2013 costantemente facciamo progetti nelle scuole. E associamo, sì, l'aspetto sociale, l'aspetto importante dei temi, come appunto alla lotta alla mafia, all'immigrazione, i rapporti padre-figlio, per esempio, che è stato l'ultimo progetto in ordine di tempo realizzato nel 2020, dico realizzato in parte perché ancora si deve concludere, ahimè. Per cui entriamo nelle scuole con queste graphic novel, con questi romanzi a fumetti, però abbiamo anche un'altra caratteristica, associamo, diciamo prima, l'aspetto sociale con gli autori siciliani. Cerchiamo per quanto possibile di far conoscere a questi ragazzi gli autori siciliani. Di valorizzare proprio il patrimonio che avete sul Sì, territorio e sulla esatto. cultura. Poi ovviamente tu sai bene che siccome le graphic novel, il mondo è vastissimo, quando ti vai ad inserire in un tema tipo la Shoah, è chiaro che lì devi fare conoscere anche altri autori che non solo sono siciliani, che sono italiani, che sono stranieri, quindi dai la possibilità comunque allo studente di arricchire la sua conoscenza, non solo sul tema ma anche sul fumetto. Ci proviamo, devo dire che i risultati sono interessanti, Bene. davvero. Sì, assolutamente Mario, sì. ti chiedo invece del vostro web magazine, sempre di Fumettomania, che adesso naturalmente voi lo utilizzate molto, è un bellissimo sito. Oggi, con la questione della pandemia, tutto si fa a distanza, voi comunque fate le vostre iniziative, sono tutte su online, direi. Ce ne puoi raccontare alcune? Tutte online, hai detto bene, siamo stati costretti, tra virgolette, a questo spostamento perché i progetti sul territorio non è stato possibile farli, ce n'erano alcuni già programmati e lì dove abbiamo potuto li abbiamo spostati online. Certo, il pubblico è diverso, perché ad una mostra ti vengono magari a visitare 1.000 persone, online 1.000 persone per ogni articolo non ce le hai mai. O meglio, magari certi siti ce li hanno, noi ancora no. I progetti, allora, noi li abbiamo portato online, intanto il progetto, quello di Rodari, sì, questo grande scrittore italiano e favolista, doveva essere una mostra che dovevamo inaugurare il 23 ottobre, non è stato possibile, allora via. Ogni settimana pubblichiamo un intervento, alcune volte scritto, alcune volte sono storie e fumetti, alcune volte sono illustrazioni. Fino oggi siamo alla 14ª puntata, sì, ne abbiamo altre 3, forse 4. Una di queste puntate, chiamiamole così, e noi le abbiamo chiamate baghe virtuali, ma in realtà sono puntate, è stata dedicata agli studenti dell'Istituto Comprensivo Bastiano Genovese di Barcellona Pozzo di Gotto, che è stato l'unico istituto fra i 6 invitati ad aver realizzato delle opere, perché noi abbiamo detto agli istituti: cerchiamo di fare delle opere, se possibile approfondiamo, ognuno come può. E questo istituto ha risposto alla grande con circa 40 cartelloni, e 11 li abbiamo già pubblicati, quelli più carini, più interessanti. Gli altri mi sono promesso di farlo a fine progetto, perché è come dire un grazie, no? Agli studenti, ai professori che comunque da settembre a novembre si sono impegnati quei 2 mesi, nonostante ci fosse già il problema della didattica a distanza, della pandemia e via dicendo. Dobbiamo stimolare questi ragazzi, Morena, e questo è stato il nostro modo, è il nostro modo per farlo. Questo come progetto, diciamo, importante. Poi in realtà nel 2020 abbiamo fatto un bellissimo tributo ai 100 anni dalla nascita di Isaac Asimov, il grande scrittore di fantascienza, e anche lì bei interventi di autori italiani e stranieri, per esempio. E in questo momento lentamente stiamo iniziando a presentare anche il prossimo progetto che ci accompagnerà nel 2021, ma anche nel 2022. Quindi avete progetto. Comunque ancora molte cose in cantiere. Molte, molte, molte, guarda, in cantiere. Sì, quindi sì, io sì, direi sì. Anche che possiamo dare l'indirizzo esatto del sito, così tutti quelli che vorranno vedere il lavoro che fate potranno farlo, se vuoi dirlo tu. Sì, www.fumettomaniafactory.net. Aggiungo che tu mi dicevi prima, è un bellissimo sito. Sì, però lo stiamo migliorando, perché ci sono delle cosine un attimino da migliorare. Sai, come tutti i siti che riunisce le attività culturali e dell'associazione e la rivista, l'ex fanzine, oggi diventato il magazine, dobbiamo riuscire a equilibrare queste due cose. Ancora non ci siamo riusciti pienamente, però sì, ci stiamo lavorando. Ora, quando dico un bellissimo sito, mi riferisco sempre al contenuto, perché io sono legata al contenuto. Grazie, che... grazie. Dobbiamo guardare entrambe le cose, sai, Morena, certo. Perché gli utenti li colpisci sull'impatto, con quello che vedono nella home page. Poi magari i contenuti sì, ci sono, figure, 198 articoli abbiamo pubblicato nel 2020, la media di quasi uno ogni 2 giorni, quindi sì, assolutamente i contenuti ci sono. Ed è un piccolo sito, guarda, che si sorregge su 10 persone circa, non di più. Passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani. Vi chiediamo di battere le mani per chi ogni giorno combatte le mafie nel nostro paese. Vi chiediamo di battere le mani per le forze dell'ordine, per i magistrati, per i giudici. Vi chiediamo di battere le mani anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera, che ogni giorno vivono sulla propria pelle questi 100 passi. Notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai cantare, e dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, e dopo i 100 passi di Peppino Impastato e il Modern City Rumbles andiamo dunque, visto che siamo nell'epoca di Silicon Valley dei Bill Gates, anche noi ad attrezzarci col massimo della tecnologia, col presentatore elettronico a cui diamo il microfono. Parliamo ancora del pioniere cercando nell'archivio di Radio Città Fuscico e troviamo in voltiamo pagina di William Piana la scrittrice Silvia Albertazzi, professoressa ordinaria del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Ateneo Bolognese. La seconda novità è un libro che io ho letto durante le vacanze di Natale, perché mi è stato fatto omaggio, esattamente come a te, della zona letteraria. A me è stato fatto omaggio di questo libro che ho letto subito per curiosità e che mi è piaciuto, quindi ho detto voglio proprio parlarne. Bene. Dunque il libro infatti l'ha scritto il vostro Alfredo Pasquali e si intitola Chi ha ucciso Cipollino, un libro che, usando una cornice fantastica, racconta in qualche modo la storia del fumetto nel dopoguerra, soprattutto in riferimento al giornalino del Partito Comunista, dell'allora Partito Comunista per ragazzi, cioè il giornalino per ragazzi dell'allora Partito Comunista, cioè il Pioniere. Ma per parlare del Pioniere ovviamente fa anche tutta una serie di riferimenti ai fumetti del tempo e soprattutto a come il fumetto fosse visto al tempo, e non solo al tempo ma anche per qualche decennio dopo, cioè come un prodotto che rendeva i ragazzi pigri perché gli faceva vedere solo delle immagini, li faceva leggere attraverso immagini invece che attraverso parole, che quindi era destinato a mantenere il volgo infantile in uno stato di ignoranza, e insomma un prodotto guardato con sospetto. Alfredo racconta tutto questo non in un saggio, che allora potrebbe anche essere noioso, soprattutto per me che non amo i fumetti, lo dico francamente, non ho mai amato i fumetti, non amo le graphic novel, ho troppo amore per la parola forse, e che non ho mai visto il Pioniere in vita mia, quando ero piccola, all'età giusta, perché leggevo, i miei mi comprava il Corriere dei Piccoli tutte le settimane, vabbè. E quindi non sapevo nemmeno chi fosse Cipollino. Non è mai troppo tardi, Silvia, vedi? Dicevo però che Alfredo fa una bella operazione, perché immagina questo consesso di tutti i maggiori personaggi dei fumetti di tutti i tempi e luoghi che si riuniscono all'Agatha Christie, no? Sì. Lo scheletro un po' quello dei 10 piccoli indiani, che si riuniscono per sapere, per scoprire chi ha ucciso Cipollino, perché di tutti questi personaggi di fumetti l'unico che non è più in vita è Cipollino. E quindi è una bella struttura, sì, che rimette in è una bella struttura, man mano, di volta in volta, di capitolo in capitolo, come nei 10 piccoli indiani, viene fatto fuori uno di questi personaggi di fumetti, e alla fine naturalmente c'è l'epilogo appunto alla Agatha Christie. Vorrei dire un'altra cosa che a me ha colpito moltissimo leggendo questo libro, trovare le citazioni esatte da giornali o da documenti del tempo di personaggi, non so, del calibro di Nilde Iotti, per dire, che si prendeva la briga di scrivere un papiro lunghissimo sul fatto che i fumetti fossero immondizia, e usando proprio quel tipo di argomentazioni che usavano ai miei tempi le maestre per disincentivare la lettura dei fumetti, cioè veramente argomentazioni abbastanza non all'altezza del personaggio, secondo me. Certo. Da un lato. Altra cosa interessante di questo libro, è un libro molto equilibrato, perché se ti fa vedere appunto Nilde Iotti che spara a zero contro il fumetto, ti racconta anche però la storia di come i redattori, i direttori e rettori del Pioniere fossero addirittura scomunicati nell'immediato dopoguerra, perché facevano questo giornalino. Tra questi redattori c'era, come sappiamo tutti, il grandissimo Gianni Rodari. Sì, che ne è stato questo, anche direttore. Certo. Ecco, e questo per me, scusami, una piccolissima parentesi autobiografica, questo mi ha aperto un mondo. Questo libro per me ha funzionato come la Madeleine di Proust. Ho trovato tutta una serie di cose che mi hanno riportato ovviamente alla mia infanzia e all'infanzia dei miei fratelli, che invece leggevano molti fumetti, e a un episodio che io non avevo mai capito profondamente fino adesso. Dunque, la prima volta che io a 20 anni più o meno faccio un regalo con i miei soldi così a un bambino che conoscevo, che era figlio di persone molto, come dire, molto cattoliche, molto democristiane, addentro a quell'ambiente, mi viene l'idea per Natale di regalare a questo bambino la torta in cielo di Rodari. Quando glielo consegno, il bambino sbianca, fa una faccia come se gli avessi regalato, che ne so, It di Stephen King, e poi mi dice: posso sapere dove l'hai comprato? Dico: sì, da Feltrinelli. In libreria. In libreria. Allora posso andare a cambiarlo? No. Perché io non posso leggere questo libro. E io sono rimasta esterrefatta, e per tanto tempo mi sono domandata perché un bambino non potesse leggere Rodari, quando i miei fratelli, che sono un po' più giovani di me, ma io stessa anche, siamo tutti cresciuti a colpi di Rodari. E ce lo regalavano anche per la Befana dei Ferrovieri, c'era sempre nel pacco un libro di Rodari. E questo bambino dice: no, io non posso leggere Rodari. Ho imparato dal libro di Alfredo Pasquali che Rodari era uno scomunicato, quindi il bambino di famiglia chiesaiola non poteva leggere un autore scomunicato. Ecco, questo io mi ha risolto un dubbio che mi porto dietro da un sacco di tempo. Da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando un blues.